Non è solo spirito ma è carne, e carne tentata che soggiace ad improvvise debolezze. Ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. Chi avrà parlato contro il figlio dell'uomo sarà ancora perdonato, perché la pesantezza della carne, che avvolge la mia persona e avvolge l'uomo che contro me parla, può ancora trarre in errore. Ma chi avrà parlato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questa né nella vita futura, perché la verità è quella che è, netta, santa, innegabile, ed espressa allo Spirito e in maniera che non induce ad errore. Altro che in coloro che volutamente vogliono l'errore. Negare la verità detta dallo Spirito Santo è negare la parola di Dio e l'amore che quella parola ha dato per amore degli uomini. E il peccato contro l'amore non è perdonato. Ma ognuno dà i frutti della sua pianta. Voi date i vostri, e frutti buoni non sono. Se voi date un albero buono perché sia messo nel verziere, esso darà buoni frutti. Ma se date un albero cattivo, cattivo sarà il frutto che da esso sarà colto, e tutti diranno, questo albero non è buono. Perché è dal frutto che si conosce l'albero. E voi come credete di poter parlare bene, voi che siete cattivi? Perché la bocca parla di ciò che gli riempie il cuore. È dalla sovrabbondanza di ciò che abbiamo in noi che noi traiamo i nostri atti e discorsi. L'uomo buono trae dal suo buon tesoro cose buone, il malvagio dal suo cattivo tesoro leva le male cose. E parla e agisce secondo il suo intimo. E in verità vi dico che l'ozio è colpa. Ma meglio è oziare che fare opere malvagie. E anche vi dico che è meglio tacere che parlare oziosamente e malvagiamente. Anche se il tacere è ozio, fatelo piuttosto che peccare con la lingua. Io vi assicuro che di ogni parola detta oziosamente agli uomini sarà chiesta la giustificazione nel giorno del giudizio, e che per le parole dette saranno gli uomini giustificati, e dalle parole stesse saranno condannati. Attenti, perciò, voi che tante ne dite di più che oziose, perché sono non solo oziose ma operanti nel male e allo scopo di allontanare i cuori dalla verità che vi parla. I farisei si consultano con gli scribi e poi tutti insieme, fingendo cortesia, chiedono, Maestro, si crede meglio a quello che si vede. Dacci dunque un segno perché noi si possa credere che tu sei ciò che dici d'essere. Vedete che in voi è il peccato contro lo Spirito Santo, che per Verbo incarnato mi ha indicato più volte? Verbo è Salvatore, venuto nel tempo segnato, preceduto e seguito dai segni profetizzati, operante ciò che lo Spirito dice. Essi rispondono: Allo Spirito crediamo. Ma come possiamo credere a te se non vediamo un segno coi nostri occhi? Come potete allora credere allo Spirito le cui azioni sono spirituali, se non credete alle mie che sono sensibili ai vostri occhi? La mia vita ne è piena. Non basta ancora? No. Io stesso rispondo che no. Non basta ancora. A questa generazione adultera e malvagia, che cerca un segno, sarà dato un segno soltanto, quello del profeta Giona. Infatti, come Giona stette per 3 giorni nel ventre della balena, così il figlio dell'uomo starà 3 giorni nelle viscere della terra. In verità vi dico che i niniviti risorgeranno nel giorno del giudizio come tutti gli uomini e insorgeranno contro questa generazione e la condanneranno. Perché essi fecero penitenza alla predicazione di Giona e voi no. E qui vi è uno che è da più di Giona. E così risorgerà e insorgerà contro di voi la regina del mezzogiorno e vi condannerà. Perché essa venne dagli ultimi confini della terra per udire la sapienza di Salomone. E qui vi è uno da più di Salomone. Perché dici che questa generazione è adultera e malvagia? Non lo sarà da più delle altre. In essa vi sono gli stessi santi che vi erano nelle altre. La compagine di Israele non è mutata. Tu ci offendi. Voi vi offendete da voi stessi nuocendovi nelle vostre anime, perché le allontanate dalla verità, e dalla salvezza perciò. Ma io vi rispondo lo stesso. Questa generazione non è santa che nelle vesti e nell'esterno. Dentro, santa non è. Vi sono in Israele gli stessi nomi per significare le stesse cose. Ma non c'è la realtà delle cose. Vi sono gli stessi usi, vesti e riti. Ma manca lo spirito di essi. Siete adulteri perché avete respinto il soprannaturale maritaggio con la legge divina e avete sposato, in seconda adultera unione, la legge di Satana. Non siete circoncisi che in un membro caduco. Il cuore non è più circonciso. E malvagi siete, perché vi siete venduti al maligno. Ho detto. Tu troppo ci offendi. Ma perché, se così è, tu non liberi Israele dal demonio a ciò santo diventi? Ha Israele questa volontà? No. L'hanno quei poveri che vengono per essere liberati dal demonio perché lo sentono in loro come un peso e una vergogna. Voi questo non lo sentite. E inutilmente voi ne sareste liberati. Perché, non avendo volontà di esserlo, subito sareste ripresi ed in maniera ancor più forte. Perché, quando uno spirito immondo è uscito da un uomo, vagola per luoghi aridi in cerca di riposo e non lo trova. Luoghi aridi non materialmente, notate. Aridi perché gli sono ostili non accogliendolo, così come la terra arida è ostile al seme. Allora dice, tornerò alla casa mia da dove sono stato cacciato a forza e contro la sua volontà. E certo sono che mi accoglierà e mi darà riposo. Infatti torna colui che era suo, e molte volte lo trova disposto ad accoglierlo, perché in verità ve lo dico che l'uomo ha più nostalgia di Satana che di Dio, e se Satana non gli opprime le membra per nessun'altra possessione si lamenta. Va dunque e trova la casa vuota, spazzata, adorna, odorosa di purezza. Allora va a prendere altri 7 demoni perché non vuole più perderla. E con questi 7 spiriti peggiori di lui entra in essa e vi si stabiliscono tutti. E questo secondo stato, di uno convertito una volta e che si pervertisce una seconda, è peggiore del primo. Perché il demonio ha la misura di quanto quell'uomo sia amante di Satana e ingrato a Dio, ed anche perché Dio non ritorna là dove si calpestano le sue grazie e, già esperti di una possessione, si riaprono le braccia ad una maggiore. La ricaduta nel satanismo è peggio di una ricaduta in etisia mortale già sanata una volta. Non è più passibile di miglioramento e guarigione. Così accadrà anche di questa generazione che, convertita dal Battista, ha rivoluto essere peccatrice perché amante del malvagio e non di me. Un brusio che non è né di approvazione né di protesta, scorre per la folla, che si pigia ormai tanto numerosa che anche la via ne è stipata, oltre l'orto e la terrazza. Vi è gente a cavalcioni del muretto, arrampicata sul fico dell'orto e sulle piante degli orti vicini, perché tutti vogliono sentire la disputa fra Gesù e i suoi nemici. Il brusio, come un'onda che dal largo giunge al lido, arriva di bocca in bocca fino agli apostoli che più sono vicino a Gesù, ossia Pietro, Giovanni, lo Zelote e i figli di Alfeo. Perché gli altri sono parte sulla terrazza e parte nella cucina. Meno Giuda Iscariota che è sulla via, fra la folla. E Pietro, Giovanni, lo Zelote, i figli d'Alfeo lo raccolgono questo brusio e dicono a Gesù, Maestro, c'è tua madre e i tuoi fratelli. sono là fuori, sulla via, e ti cercano perché ti vogliono parlare. Ha ordine che la folla si allontani perché essi possano venire a te, perché certo un gran motivo li ha portati fin qui a cercarti. Gesù alza il capo e vede in fondo alla gente il viso angosciato di sua madre che lotta per non piangere, mentre Giuseppe di Alfeo le parla concitatamente, e vede i segni di diniego di lei, ripetuti, energici, nonostante l'insistenza di Giuseppe. Vede anche il viso imbarazzato di Simone, palesemente addolorato, disgustato. Ma non sorride e non ordina nulla. Lascia l'afflitta nel suo dolore e i cugini là dove sono. Abbassa gli occhi sulla folla e, rispondendo agli apostoli vicini, risponde anche a quelli lontani che tentano di far valere il sangue più del dovere. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Gira l'occhio, severo nel volto che impallidisce per questa violenza che si deve fare, per mettere il dovere al di sopra dell'affetto e del sangue e per fare questa sconfessione del suo legame alla madre per servire il padre, e dice, accennando con un largo gesto la folla che si pigia intorno a lui al lume rosso delle torce e alla luce argentea della luna quasi piena, ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Coloro che fanno la volontà di Dio sono i miei fratelli e sorelle, sono mia madre. Non ne ho altri. E i miei saranno tali se, per primi e con maggior perfezione di ogni altro, faranno la volontà di Dio fino al sacrificio totale di ogni altra volontà o voce di sangue e di affetto. La folla ha un mormorio più forte, come se fosse un mare sconvolto da un subito vento. Gli scribi iniziano la fuga dicendo, è un demonio. Rinnega persino il suo sangue. I parenti avanzano dicendo, è un folle. Tortura persino sua madre. Gli apostoli dicono, in verità che in questa parola c'è tutto l'eroismo. La folla dice, come ci ama. A fatica, Maria con Giuseppe e Simone fendono la folla. Lei tutta dolcezza, Giuseppe tutto furia, Simone tutto imbarazzo. Giungono presso a Gesù. E Giuseppe lo investe subito, sei folle. Offendi tutti. Non rispetti neppure tua madre. Ma ora sono qui io e te lo impedirò. È vero che vai come lavorante qua e là. E allora, se vero è, perché non lavori nella tua bottega, sfamando tua madre? Perché menti dicendo che il tuo lavoro è la predicazione, ozioso e ingrato che sei, se poi vai al lavoro prezzolato in casa estranea? Veramente mi sembri preso da un demonio che ti travia. Rispondi. Gesù si volta e prende per mano il bambino Giuseppe. Se lo tira vicino e poi lo alza tenendolo per le ascelle e dice, il mio lavoro fu sfamare questo innocente e i suoi parenti e persuaderli che Dio è buono. È stato predicare a Corozim l'umiltà e la carità. E non a Corozim soltanto. Ma anche a te, Giuseppe, fratello ingiusto. Ma io ti perdono perché ti son morso da denti di serpe. E perdono anche a te. Simone incostante. Non ho nulla da perdonare né da farmi perdonare da mia madre, perché ella giudica con giustizia. Il mondo faccia ciò che vuole. Io faccio ciò che Dio vuole. E con la benedizione del padre e della madre mia sono felice più che se tutto il mondo mi acclamasse re secondo il mondo. Vieni, madre. Non piangere. Essi non sanno ciò che fanno. Perdonali. Oh, figlio mio. Io so. Tu sai. Non c'è altro da dire. Non c'è altro da dire fuorché alla gente questo, andate in pace. E Gesù benedice la folla e poi, tenendo con la destra Maria, con la sinistra il bambino, si avvia alla scaletta e la sale per il primo.